una vita certamente povera, molto povera, oltre ai dati che avete giustamente ricordato, possiamo immaginare anche delle altre condizioni di vita della gente che erano tipiche di paesi che oggi probabilmente sono i più poveri del mondo, forse non si trovano nemmeno in quei paesi. Pensiamo a una speranza di vita alla nascita di circa 30 anni. 30? 30, 30. E pensiamo che ci fosse una mortalità infantile nel primo anno di vita tra i nati vivi di circa un quarto, cioè un quarto dei bambini moriva nel primo anno di vita. Gli italiani erano malnutriti, in media no, mangiavano circa in media 2500 calorie, e però c'era una grande inequalità nella distribuzione di queste calorie, e noi stimiamo che circa il 30% degli italiani avesse meno a disposizione meno di 2000 calorie al giorno, quindi può essere considerato, per gli standard dell'epoca soprattutto, in cui era importante l'energia per il lavoro manuale, sottonutrito. E tra l'altro fa impressione il dato sulla mortalità infantile. Lei ricordava, nel primo anno di vita era altissima, il 290 per mille. È una media che si ritrova in alcuni paesi africani in questo momento, per cui per far capire di che Italia stiamo parlando, e perché poi quell'Italia lì, quando emigrò, quando gli immigranti italiani andavano in America o nel Sud America o in Australia, ma un po' dopo quello, venivano trattati alla stregua di terzo mondo quasi, diciamocela tutta, forse molti di noi se lo sono dimenticati, soprattutto al nord. Presidente Giovannini, la differenza tra noi, cioè questa era la differenza, diciamo, la variabile socio-economica, la differenza tra noi e il resto d'Europa, in realtà com'era, e quando è che possiamo parlare di un punto di svolta in questi 150 anni, cioè un'Italia che, anche se non superando la Gran Bretagna o la Francia, ci si avvicina a livelli accettabili? L'Italia all'epoca, come ha ricordato il professor Toniolo, era considerato un paese tra i paesi europei sottosviluppato, ed è soltanto in realtà nel Novecento e poi con il grande balzo dopo la Seconda Guerra Mondiale che l'Italia recupera posizioni e si consolida quel modello italiano, grazie al miracolo degli anni fino agli anni 50 e poi anni 60, che ha reso l'Italia una delle grandi potenze economiche mondiali. Dobbiamo ricordare che ci sono voluti quasi 30 anni, 40 anni per riuscire ad avere un reddito dal 1861, a farlo crescere intorno alla fine, ai primi del Novecento, di un 20%, ma poi solo tra il 50 e il 60 il reddito in 10 anni cresce di quasi il 100%, il reddito pro capite, e poi tra gli anni 60 e gli anni 70 cresce di un altro 60%. Cioè il vero distacco, il vero salto che l'Italia fa, e quindi l'avvicinamento, come ha ricordato anche il Presidente della Repubblica nel suo discorso, avviene nel dopoguerra, ed è con l'integrazione europea che, indubbiamente, con l'apertura ai mercati internazionali, che anche l'industria italiana riesce a fare il grande salto.